Lyle, appena entra Radio Roma. Sì. Lyle, appena entra Radio Roma. È un'altra radio, è un'altra Radio Roma, è un'altra radio, è un'altra Radio Roma, è un'altra radio, è un'altra Radio Roma, è un'altra radio, è un'altra. È un'altra radio, è un'altra Radio Roma, è un'altra radio, è un'altra Radio Roma, è un'altra radio. Un'altra Radio Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma. Bene, bene, bene, bene. Bentornati qui, sulle frequenze fantasme più famose dell'etere, l'Inartra Radio Roma. Io sono Mr. Cocot e quest'oggi vi presenterò un nuovo podcast fresco, fresco, fresco, con tracce fresche, fresche, fresche, tutte di nuove uscite tra settembre, ottobre e anche novembre. Dipende quando uscirà questo cazzo di podcast. Comunque, vi voglio subito presentare una net label che è conosciuta nel web, è francese e loro sono la LCL Net Label. Ed ad ottobre 2010 è uscito un album intitolato One Dub Many Roots di Mastermind XS. Loro sono due ragazzi, due vecchi amici, Daniel ed Echo, che sono passati attraverso alcune band e stili e si sono riuniti per dare alla luce questo album di 5 tracce, tutte dub. Perciò non importa la domanda, perché la risposta is dub. Ora per voi Business of Panic, traccia numero 2 dell'album One Dub Many Roads, qui a Narta Radio Roma, Roma, Narta Radio Radio Radio. vostro Mr. Cogot non vi ha lasciato da soli in questa frequenza fantasma che è Nartra Radio Roma. Vi ha solo fatto ascoltare un'altra traccia dopo il pezzo dub di Mastermind, e la seconda traccia era esattamente presa dal blog Good Net Labels, un blog che si occupa di suggerire e di promuovere tutte le uscite che escono sulle net label in tutto il mondo di New Jazz, Down Tempo e Hip Hop. Perciò per voi Mr. Cocotte ha scelto una traccia chiamata Loss dall'album Piani dell'artista olandese Mans, uscito esattamente il 31 ottobre del 2010 sulla label Human Workshop. Perciò per voi, dopo la traccia di Mans, vi vado ad anellare un altro successo della Noise Beat Net Label. I nostri amici di Caserta, un saluto a Lello Beast e a Mr. Gaudio. Uscita nuova per Noise Beat, uscita 025 di Opac e Hubert T. Questo pezzo per voi, Minimal Techno, a Nartra Radio Roma. Opac con il pezzo Plus su Nartra Radio Roma, su Nartra Radio Roma, su Nartra Radio Roma, su Nartra Radio, su Nartra Radio, Nartra Radio, su Nartra Radio Roma, Roma. Thank you. trovare questa ultima traccia, cari amici di Un'altra Radio Roma, vi basta andare su www.brusionetlabel.net. Loro sono una net label siciliana e approfondiscono il concetto di ambient, elettronica, drone, dark ambient, insomma tutta questa musica molto molto molto ricercata a livello di elettronica. Ultima uscita per questa net label, molto molto molto bella devo dire, è l'album di Micronoises, Mobility Space. Ed esattamente abbiamo ascoltato la traccia d'apertura Livid Sky di 5 minuti e 37 di Micronoises. Perciò per voi è Brusionet Label e andate a cercare sul sito, questo sito che vi ho appena detto, e scaricate tutte le release perché ne vale veramente la pena. Tutto Creative Commons, tutto su archive.org, tutto quanto su Un'altra Radio Roma. E vai con la prossima traccia, ragazzi. Buon ascolto da Mr. Cobot. Hey, come on in, bitch of the future. Touch me inside and give me your home. This is the place where starts the televisions. Come in the deep and dark side of souls. Hey, come on in, bitch of the future. Dance with us, open your door. We represent the starts the television. And then we're digital down. future, touch me inside and give me your home. This is the place where starts televisions go, the deep and dark side of soul. Make a plan, pitch of the future, dance with us, look at your home. We represent systems, television, and you never were being alone. Take a money and pitch up the future, touch me inside and give me your home. This is the place to start televisions, you're the deep dark side of soul. Take a money and pitch up the future, dance with us, open your door. Touch me inside and give me your home. This is the place for stars, televisions, go in the deep and dark side of souls. E lui era Direct Y, direttamente dalla Net Label for Electronic Music, Stato Elettrico. Etichetta romana, lui artista romano, e questa era la sua Beach of the Future. Direttamente dall'album Ground, ultima uscita per Stato Elettrico, ultima fatica per questo giovane produttore di musica elettronica e dal suono veramente hard. Qui a Roma, in Artra Radio Roma, si continua con le nuove uscite delle net label nazionali e mondiali. Solo su Artra Radio Roma. Artra Radio solo su Artra. Solo su Artra. Solo su Artra Radio Roma. Roma, Roma, Roma. Nartra, Nartra, Roma. Roma. We'll be right back. queste atmosfere elettroniche abstract hip hop sono di Federico Orru, aka Neva, del suo nuovo album intitolato E non sai quanto ci penso, della net label La Belle. Nuova uscita esattamente il 20 novembre 2010, perciò fresca di giornata, qui a Nartrat Radio Roma. Passiamo da una nuova release ad una release di un anno fa, esattamente novembre 2009, ma ve la volevo far ascoltare perché è molto interessante e mi è piaciuto subito al primo ascolto. Trovata e scovata su gemendo.com, lui è Bon Not, sempre italiano, album E intanto fuori piove, lui fa parte della KR Collettivo, è un glitch italiano molto particolare, ascoltate e soprattutto udite, lui, Bon Not, con la traccia Le migliori intenzioni, solo qui a Nartrat Radio Roma. Thank you. strana inclinazione al colore. Per la mia forma di attenzione, reggetevi forti che qui a Nartra Radio Roma e specialmente per Mr. Cocot sta arrivando una nuova release, esattamente la 026 di una net label veramente speciale che io adoro in modo particolare, sia come gestiscono la net label sia per gli artisti che fanno uscire le proprie release su questa net label, e stiamo parlando della Quiet Bump dell'Irpinia. Artisti favolosi, musica che non so se può piacere a tutti quanti. È sempre uno stile che va sull'elettronica, molto sul dub. E perciò, per questa nuova uscita, vi farò ascoltare il nuovo album dei Black Era. Loro sono molto trip-hop, molto trip-hop, altro che hop-hop, cavallino. Vabbè, comunque, a parte le stronzate che dice Mr. Cocot, vi farò ascoltare il nuovo album, How Pierced. Ed esattamente la traccia che vi si incollerà nel cervello e la dovete ascoltare non una volta, non due volte, ma 1500 volte. La traccia in questione è Glow. Loro sono Black Era, nuova uscita sulla Quiet Bump Net Label. Dai regà, per voi Black Era. Glow. We are Nartra Radio. Roma. Yeah. passiamo da una net label italiana ad una net label spagnola, esattamente di Barcellona. Musica vermella, dice Mr. Cogot, ma penso che si dica musica vermeia. Comunque, nuova uscita, l'esattamentos, l'uscita 011 di DJ Code con l'album Journey. Qua si dice sul blog di Musica Vermeia che DJ Code e questo album sono un misto di hip hop, wonky e senza dubstep, fusa con caratteristico profumo electro. Per noi è solo DJ Code e adesso vi mando tre pezzi in sequenza perché due sono molto corti ed uno è molto molto molto non corto. Perciò per voi, da Musica Vermeia, DJ Code con la traccia So Sexy Skit. Dopodiché avremo Soul e per ultimo You Disconnect. Per voi DJ Code, Code, distribuito dalla Musica Verniela Net Label di Barcellona, mi sembra, Spagna. Così, continuiamo, andiamo avanti con Art Radio Roma e le novità sulle Net Label in giro per il web, smanettando. Mr. Cogot vi presenta un'altra novità discografica, e lui già lo conosciamo, si chiama Il Cobra, uscita su Sostanze Record. Potete trovare tutte le novità, tutte le release di questa net label che si occupa molto di elettronica, drum and bass, e ultimamente questo nuovo album del Cobra, a chi piacciono le sonorità dubstep, per voi, Caos Ordinato, dall'album Cogito Ergo Beat. Sostanze Records, per voi, il Cobra. We'll be right back. Complimenti al Cobra e complimenti soprattutto ai ragazzi romani che gestiscono Sostanze Record. Vogliamo dire una cosa su Sostanze Record, che non è un sito propriamente che si occupa soltanto di musica. Questa è una sezione che si occupa di musica ed è Sostanze Record. Comunque, se andate sul loro sito sostanze.it e troverete molte iniziative in qualunque ambito voi vogliate. Insomma, complimenti ai ragazzi di Sostanze Record. Continuiamo così, andiamo avanti con un altro artista che Mr. Cocot ha scoperto sull'ormai scomparsa Cube.tv. Lui si chiama e si chiamava e si chiamerà Death in Paris. Ha fatto uscire un nuovo album sotto licenza Creative Commons e lo troverete su reverbernation.qualcosa, insomma, non mi ricordo bene se è .com.it. Questo è il suo nuovo album, uscito interamente sotto Creative Commons. Sotto Creative Commons License! Lui è Death in Paris e questo è l'album New Queen. Ci sentiamo in successione due pezzi, molto funky house. Il primo pezzo... E il secondo... This Love. Per voi a Nartra Radio Roma. Nartra Radio Roma. Nartra Radio Roma. Nartra Radio Roma. I'm not afraid to die. this feeling. Got to feel this love. Got to feel this love. E dopo l'ultimo brano preso dall'album New Queen di Death in Paris sotto licenza Creative Commons, nuovo album per Death in Paris scoperto da Cube, da Mr. Cogot molto molto tempo fa. Ormai pace all'anima sua, dico a Cube, not Death in Paris. E continuiamo con un altro artista che abbiamo sempre conosciuto attraverso Cube e che ci ha anche regalato un podcast, il numero 03. Lui addirittura è stato il primo special guest dei podcast dell'Altra Radio Roma. Ed ora, esattamente il 1 novembre 2010, ha fatto un nuovo album intitolato How to Shit in the Woods, disponibile su bandcamp.com. Potete andare lì, ascoltarlo, scaricarlo, comprarlo e diffonderlo. E soprattutto Nart Radio Roma ringrazia Shklok per aver citato il suo album, che così potremo diffonderlo attraverso tutti i nostri canali fantasmi. Per voi due tracce, dopodiché i saluti. E alla prossima. Prima traccia, You Can't Make a Sound. Seconda traccia, Gnu, Gna, Gnau. Sempre Dash Clock, How to Shit in the Wood. Qui a un'altra radio Roma, Roma, Roma, Roma, Sclock, Sclock, un'altra radio Roma, Sclock, un'altra radio Roma, New Brand Album, New Brand Album, Altra, Altra, Altra, kiss, follow our side.